Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 16 novembre, benvenuti di nuovo a tutte e tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro, Eduradio e TV, il programma che, come sapete, fa da ponte tra carcere e città, che va in onda un'ora al giorno su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me. Ciao. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Oggi le notizie riguardano il Garante Nazionale dei Detenuti, che ha lanciato un allarme per il rischio di sovraffollamento dopo questo anno di pandemia. I dati stanno risalendo, perché negli ultimi 28 giorni si sono registrate 310 nuove presenze, e l'aumento riguarda purtroppo anche i ristretti per pene inflitte non residue inferiore ai 3 anni. Si rischia quindi un ritorno gradualmente ai numeri allarmanti del sovraffollamento carcerario pre-pandemia. Aumenta ormai con costanza il numero dei detenuti, oggi sono quasi 55.000, con un aumento di 310 presenze soltanto nell'ultimo mese. Un ritmo che suscita chiaramente preoccupazione, ha osservato il Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale. Quindi diciamo che è finito l'effetto pandemia? Sì, sembra in qualche modo, perché si tratta di un segnale, sempre secondo il Garante, in controtendenza rispetto alla riduzione che si era avuta nel 2020, anche a seguito, chiaramente, come dici tu, dell'emergenza sanitaria. Allora i detenuti erano scesi da oltre 61.000 di marzo 2020 a 53.387 alla fine di maggio. Ma questo aumento riguarda anche le persone ristrette per pene inflitte non residue molto brevi, ovvero quelle inferiore ai 3 anni. Oggi sono detenute in carcere per scontare una pena inferiore a un anno ben quasi 1.200 persone, e altre 5.000 per una pena da 1 a 3 anni. È un dato numerico, ha detto il Garante, che da solo risponde a coloro che affermano che in Italia nessuno è in carcere per pene così brevi, anzi. Beh, è preoccupante la situazione, ma come ci si preparerà a ridurre questa nuova ondata, e che cosa dice il Garante Nazionale? Allora, naturalmente, come dici tu, è un segnale che preoccupa, e infatti il Garante ha richiamato a una riflessione su questo attori diversi, da quelli territoriali alla magistratura, sia una riflessione di cognizione che di sorveglianza, nonché anche un appello a chi ha responsabilità politica e amministrativa. E questo perché ha lo scopo, ecco, di creare volontà, rapidità nelle procedure, nelle risorse che permettano di affrontare con modalità alternative e certamente più socialmente più utili pene di così lieve entità. Infatti, riforma della giustizia a parte, finora non è stata varata nessuna misura urgente che risolve il problema del sovraffollamento, estendendo dei benefici, la custodia cautelare come extrema ratio, il discorso dei detenuti con gravi problemi psichici e, come ha sottolineato il Garante, le persone ristrette per pene lievi da 1 a 3 anni. Nulla di ciò è stato ancora fatto, e come è noto, contro l'emergenza carceri, il cosiddetto sovraffollamento, la ministra della giustizia Marta Cartabia ha firmato il decreto di costituzione di una commissione, a cui è stata presieduta questa commissione da Marco Ruotolo, che come sapete è un professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Roma 3, ma purtroppo c'è il problema dei tempi, come sempre quando si parla di carcere resta questo problema esondante dei tempi così lunghi, perché come la storia insegna, se pensiamo alle commissioni dei governi precedenti, sono tempi lunghi e il rischio che infranga con un nulla di fatto è molto reale. Ma restiamo in tema musica, alla fine sempre di ogni notizia, rimaniamo con Elton John, e oggi la canzone Saturday Night All Right for Fighting è una delle composizioni più rock di Elton John ed è tratta da un album del 1973. Ascoltiamola insieme e ci rivediamo. Rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale, siamo con Antonella, sempre su Liberi Dentro Tu Radio TV, e il nostro martedì, come sapete ormai da alcune settimane, è sempre itinerante, ci spostiamo dal Medio Oriente, abbiamo visto i grandi laghi, i grandi specchi d'acqua, e sempre più piccoli ormai perché si riducono, ma passiamo a parlare di Giordania, vero? Sì, andiamo in questo paese fantastico, una nazione unica, con un territorio variegato che comprende, pensa un po', deserti, oasi, colline verdi e fertili, canyon naturali, la famosissima depressione del Mar Morto e il Golfo di Aqaba nel Mar Rosso, oltre ovviamente a incredibili tesori archeologici come la famosa città di Petra, che vorrei tanto visitare prima o poi. E, per dare un'idea della sua conformazione fisica, pensa che il 14% dell'area è territorio seminativo e arativo, con pochi prati e pascoli ovviamente, mentre la superficie boschiva è molto relativa perché solo l'1,5%, e il resto è incolto e improduttivo, e di foreste ovviamente non ce ne sono. Si trovano soltanto boscaglie con piante xerofile, che sono quelle che vivono bene nei climi caldi e asciutti. Però il territorio della Giordania è nel suo insieme un altopiano, con un'altezza media intorno ai 1000 metri, ed è delimitato però dalle montagne, sia a nord che a sud, che invece va un po', diciamo, abbassando i margini a ovest e a est. Infatti nella parte occidentale il livello del terreno precipita verso la depressione della Valle del Giordano, mentre a est degrada nel deserto dell'Iraq e dell'Arabia Saudita. Questo per proprio dare un'idea di come è composto, di dove è messo. E siccome ci hai parlato di montagne, come sono queste montagne? No, le montagne, come ti dicevo, ci sono monti che a nord possono arrivare, quelli al confine con la Siria per essere precisa, superano di poco i 1200 metri, invece quelli a sud sono un po' più alti, arrivano ai 1550. E inoltre nella parte occidentale la Giordania è attraversata da due linee di frattura della costa terrestre, cioè le cosiddette faglie, parallele tra di loro, che da nord, quindi dal confine con il Libano e con la Siria, si dirigono a sud verso il Golfo di Aqaba. E questa zona è importante perché compresa tra queste due linee c'è proprio la Valle del Giordano. Parlando di geografia fisica, ecco, come si suddividono le regioni della Giordania? Allora, guarda, in realtà la Giordania si suddivide in tre regioni fisiografiche. La Valle del Giordano, di cui abbiamo accennato prima, l'East Bank e il deserto est. La Valle del Giordano è fertile e pianeggiante, va dal confine siriano fino al Golfo di Aqaba ed è attraversata appunto dal fiume Giordano, come dice la parola stessa. Il clima è terribilmente caldo in estate e senza ventilazione, ed è invece molto mite d'inverno. Mentre l'East Bank, che è la zona più famosa, ed è famosa perché lì ci sono anche le località di Gerasa, Petra e Madaba, quindi siti archeologici, nonché le città maggiori, Amman, Irbid, Zark e Kerak, è la regione appunto ad est del Giordano, ed è un altopiano prevalentemente desertico. Il clima è caldo in estate e freddo in inverno, periodo in cui a volte addirittura compare la neve sia ad Amman che a Petra. E il deserto est arriva fino ai confini con la Siria, che è appunto la terza, diciamo, regione cosiddetta. A nord, verso il confine siriano, è caratterizzato da campi di lava costituiti da rocce basaltiche, mentre a sud diventa un deserto sabbioso, da cui emergono queste fantastiche rocce di granito che si possono ammirare al Wadi Rum, nella zona intorno a Petra. Anche lì le temperature sono molto elevate in estate, anche se il caldo secco, come sai, è più sopportabile, però fa molto caldo. Ed inverno, a causa dei venti freddi, il clima è abbastanza duro, con pochissime precipitazioni. E dulcis in fundo c'è anche la bellissima città di Petra, dove anche io un giorno vorrei andare. Potremmo organizzare un'escursione collettiva, perché certo. Petra è la magnifica città antica semi nascosta nel paesaggio spazzato dal vento della Giordania meridionale, ed è ovviamente uno dei siti più celebri dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, ed è proclamata anche una delle sette nuove meraviglie del mondo, perché ha conservato intatto il suo fascino nonostante i momenti difficili in cui la regione è precipitata molto spesso. Pensa che il complesso archeologico fu rivelato al mondo occidentale abbastanza di recente. In effetti fu l'esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt che nel 1812 lo scoprì. Nell'antichità era una città edomita, ma poi divenne capitale dei Nabatei. Verso l'VIII secolo fu abbandonata e, benché le sue antiche cavità abbiano ospitato beduini per secoli, fu praticamente dimenticata fino all'età contemporanea. Ci sono tantissime leggende intorno a questa città e, secondo gli archeologi, tra l'altro, sotto l'attuale città, coperta dalla sabbia del deserto, ne esiste un'altra altrettanto maestosa ancora da scoprire. Chissà che cosa ci sarà sotto. Ma proprio per rimanere nel deserto, ascoltiamoci la canzone di Sting con Cheb Ma Me, Desert Rose. E poi, a seguire, possiamo anche ascoltare un'intervista ad Antonio Mero dell'associazione Mai Più Solitudine. A dopo. Ben ritrovati, sempre su Liberi Dentro Due Radio TV. Per questa settimana abbiamo un ospite con noi, un ospite speciale, viene da Catania. Ciao Antonio Omero, ex insegnante, editore e autore di Guide di Pubblica Utilità. Ti ringrazio per l'invito, Caterina. Innanzitutto voglio fare a te e ai tuoi collaboratori complimenti per quanto riguarda Liberi Dentro, che è un'iniziativa veramente utile, socialmente impegnativa e che sicuramente dà dei buoni risultati. Ho potuto vedere anche delle interviste da te condotte in modo magistrale. Grazie, Per ti ringrazio. cui Ti ringrazio. complimenti ancora. Un saluto va a tutti i nostri fratelli e sorelle detenuti, a loro un grande abbraccio. Ma tu, Antonio, devi sapere che tante persone che ci ascoltano, anche io penso ai miei della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna, sono delle tue terre, le terre di Sicilia, che in quest'ultimo periodo sono state oggetto di un fenomeno naturale veramente anche inquietante. Quindi intanto un saluto a loro che ci ascoltano e raccontaci come state, come avete vissuto questo periodo ciclonico. Diciamo che la maggior parte dei danni è avvenuta tra Catania, Siracusa ed Augusta, dove addirittura da Augusta è anche caduta parte della rocca, no, antica di Augusta. Catania ha subito tutti i danni su via Etnea fino al mare, però. E Siracusa anche ha subito tantissimi danni. Diciamo che per quanto riguarda Catania, il problema fondamentale è appunto l'incuria della classe politica. Bisogna dirlo, eh? La responsabilità, posso dire, al 70% è della classe politica, di qualsiasi colore politico. Ha avuto la possibilità di amministrare questa stupenda città di Catania, ovviamente. Perché il canale di Gronda, chiamato canale di Gronda, tu sai che noi abbiamo l'Etna, no? Quindi l'Etna e tutti i paesi etnei scaricano l'acqua proprio su Catania. Ecco che allora si era pensato di realizzare un canale di Gronda, finanziato ma mai ultimato, per cui le acque che scendono dai paesi etnei arrivano fino al mare direttamente convogliandosi in modo scoperto sulla bellissima via Etnea fino a Piazza Duomo, dove lì avviene la catastrofe. Per arrivare a mare, la colpa di quello quindi che è successo a Catania è frutto delle cattive gestioni politiche che non hanno completato il canale di Gronda. Quindi invece raccogliere le acque a monte già esiste, però non esistono i collegamenti con i collettori fognari che portano regolarmente, in modo pulito e corretto, l'acqua al mare, deviandola dalla città. La natura fa il suo corso naturale, si riprende il suo spazio derubato dall'uomo. Sgarbi aveva ragione. quando è venuto qui a Catania, anche sull'Etna, a volte, ma in tutte le parti d'Italia e forse non dico del mondo, perché io sono stato in tanti posti, come la Germania, per esempio, e ho visto l'architettura particolare a Rostock, per esempio, dove mio figlio lavora, uno dei miei due figli, è perfetta, perfetta. Lì si apre una specie di tubo e lì entrano tutti i servizi. Non si fanno diversi scavi, solo una volta, e poi tutto va a procedere. Per cui è una questione di intelligenza politica, di amore per la collettività e anche di onestà intellettuale. Ecco. Grazie per questo quadro che ancora una volta ci fa capire quanto la nostra responsabilità anche nella cura ambientale, come tantissime volte ha ripetuto anche il Papa Francesco, è fondamentale, cioè è tutto in questo momento. C'è un richiamo alla cura che è un'emergenza. E Antonio, ritornando sui nostri temi, so che tu sei stato insegnante di comunicazione e marketing e che hai fondato due associazioni. Partiamo dalla prima perché sono troppo interessanti. Nel 1989 hai fondato Comunicazione Globale sull'orientamento scolastico e universitario, e la cosa che mi stupisce è che siete stati i primi a farlo negli anni praticamente 90. Come nasce questa iniziativa? Allora, io fino al 1988 ho lavorato nel settore delle vendite. Ho lavorato anche per una grande azienda bolognese di Zola Predosa, che era la DEC, Deserti & Company, Marina Deserti Story. Una grande importatrice di prodotti alimentari, vini e liquori. Quindi dallo champagne, Verpico, al Twinings, al Droste, eccezionale. Dopodiché io, vendendo molti liquori, poi ho fatto il capo aria per un'azienda di Genova, sono entrato in crisi. Non mi andava più di far ubriacare le persone, ma vendevo bei prodotti, Glenfiddich, Glen Grant, insomma tanta roba. E a questo punto mi sono dimesso da capo aria e ho fatto una scelta. Io sono sempre stato un vulcano di idee e ho visto che molte persone soffrivano sia per una cattiva informazione in generale, ma in modo particolare una cattiva informazione nell'orientamento scolastico. Allora è nata Comunicazione Globale. Nel 1989, figurati, questa Comunicazione Globale, il nome già era tutto un programma, nasce quando ancora nessuno parlava di globalizzazione, 1980, e quindi nel suo statuto aveva dei forti richiami al positivo avvicinamento dei popoli attraverso anche la rete internet, che allora muoveva i primi passi. Parliamo 1989. Tu sai che internet in Italia è stato scoperto da un gruppo il 30 aprile dell'86, 1986, quando il nostro paese si collegò per la prima volta ad ARPANET grazie al lavoro di Stefano Ciampi, Luciano Lenzini, sto leggendo, e Antonio Blasco Bonito al QNC di Pisa. Era l'inizio di una rivoluzione che allora non potevamo comprendere. 30 aprile 1986 l'Italia si è collegata per la prima volta a internet, mentre internet nasce in America tramite due inventori originari ARPANET, appunto una questione militare, Robert Kahn e Vincent Cerf. A questo punto allora io organizzo Comunicazione Globale per fare diverse attività, non solo orientamento scolastico, però per l'orientamento scolastico io ho fatto la guida alla scelta della scuola media superiore, che io scrivevo, producevo, editavo e distribuivo. Io con le mie mani e la carrozza e con il pulmino in tutte le scuole medie, le terze medie, di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Messina, un lavoro immane, un lavoro che non veniva finanziato allora da nessuno, dagli enti locali. Mi autoproducevo attraverso gli sponsor, che si chiamano contributi volontari, oneri di utilità sociale che lo Stato dà la possibilità di fare scaricare fino al 2% del proprio reddito d'impresa. Per cui raccoglievo prima la pubblicità, poi trasformavo, poi scrivevo un lavoro enorme. Quindi ho scritto La guida alla scelta della scuola media superiore e contemporaneamente ho organizzato l'Orienta Scuola, cioè i classici che oggi fanno quasi in tutte le scuole, in un bellissimo centro fiere di Catania, dove venivano tutti i ragazzini della scuola media e c'erano le scuole medie superiori che proponevano il proprio progetto. Questo a partire dal 90, unico. Poi ho fatto anche la guida alla scelta della facoltà universitaria e della specializzazione professionale con consulenza telefonica o di presenza, perché allora internet era quello che era ancora, eccetera. E mi fermo qui per quanto riguarda l'orientamento scolastico. Queste cose che ci racconti sono tanto più interessanti proprio perché negli ultimi 10 anni i dati stimano che quasi oltre 50.000 giovani sono partiti dalla Sicilia dopo gli studi, a volte anche dopo gli studi superiori o dopo gli studi universitari per la ricerca del lavoro. Raccontaci brevemente, abbiamo pochi minuti prima della canzone finale, per un po' anche questa realtà siciliana, come mai? Allora, non c'è educazione alla creatività. Questa è una materia, la creatività, che dovrebbe essere inserita a livello di scuola elementare, dall'elementare in su. Io ho 2 figli, uno ha 2 lauree, ok? Però dopo che ha fatto un concorso che secondo lui era truccato, ha detto: papà, io in questa nazione non ci sto. Ed è andato a lavorare per 2 anni nella Bassa Baviera come cameriere, un ragazzo laureato. Beh, poi la Germania lo chiama e gli dice: dottore, io le possiamo proporre 2 lavori, o in una multinazionale, come ha detto alla grande amministrazione, oppure la facciamo entrare nella nostra accademia dell'amministrazione, mio figlio è laureato in pubblica amministrazione, e materialmente la formiamo e dopo 3 anni le diamo lo stipendio che lei sta prendendo come cameriere. Noi non permettiamo che lei faccia il cameriere per oltre il 3° anno e lei diventa un nostro funzionario di Stato. La Germania ha fatto queste 2 proposte. Okay? Mio figlio ha accettato perché ha avuto paura, perché non doveva firmare il contratto per sempre se la Germania investe su di te, perché sennò hai una penale da pagare. Lui ha preferito lavorare in Sixt Auto Noleggio, un'azienda mondiale, e fa ormai è un manager a tutti gli effetti. L'altro piccolino mi fa: no, io la terra non la lascio, si laurea in giurisprudenza, poi in professione legale, eccetera, e poi materialmente entra come commissario di polizia. Ha vinto il concorso, ce l'ha fatta ed è un commissario di polizia. Per cui vedi, chi vuole può studiare, può ritagliarsi il proprio spazio, eccetera. Effettivamente non è facile. Mio figlio è entrato senza raccomandazioni, e che veramente. E ora ha fatto il concorso, il secondo, per la magistratura. Questa è una cosa che voglio dire, perché vorrei dire al ministro della giustizia: come si fa a realizzare questi concorsi per diventare magistrati? Faccio una piccola parentesi. Prima c'era una laurea di 4 anni, potevi fare il concorso. Allora i nostri giudici, Livatino, Falcone, Amori Nostri, Borsellino, eccetera, andavano subito a vincere un concorso a 23-24 anni. Mio figlio fa un concorso in magistratura a 32, perché non ti dico quello che bisogna fare per arrivare a fare il concorso in magistratura, ma la cosa più schifosa è che tagliano solo il 5% dei ragazzi che presentano le 3 tracce, solo il 5% al di sotto di quello che è il fabbisogno messo a disposizione, solo il 5% viene ammesso agli orali, il 5%. Allora c'è da farsi una domanda. Le università formano scecchi, asini oggi? Oppure? È un bel punto di domanda ed è una nota che mi dispiace in questo momento interrompere, ci dobbiamo lasciare perché la puntata tira e portala allora verso la fine, ma chiudiamo in dolcezza una canzone che mi proponi tu, Riccardo Cocciante con... Margherita, bellissima. Una bellissima canzone. Del mio caro amico Riccardo, che io conosco personalmente. Grazie, allora a maggior ragione. E a domani. Ciao Antonio. Ciao. Rieccovi, bentornati dopo aver ascoltato l'ospite con noi per tutta la settimana, Antonio Mero. Seguite le nostre rubriche di oggi, e ci saranno le mie interviste, questa volta a Silvia Giralucci, che come sapete è una giornalista e ha fatto un podcast quest'anno che si intitola Pianosa, l'isola del diavolo, ed è un podcast dedicato a quest'isola che per 150 anni, pensate, è stata un carcere. Ne ho parlato con lei, lei mi ha raccontato i segreti di quest'isola, la sua storia e come è arrivata a fare questo studio che coinvolge anche la sua storia personale. Ma non aggiungo altro, seguite la rubrica e scriveteci sempre redazioneliberidentro@gmail.com. Un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, da Enea Flacco e dalla nostra tirocinante, perché sì, Eduradio ha anche dei collaboratori esterni che fanno tirocinio con noi, Diana Bota. Ciao, a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.